Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ritrovati da Maria Luisa Pezzali. È un'eccellenza nascosta del Made in Italy, dovrebbe essere citata insieme a cibo, moda e design. Parliamo della cosmesi. Basti pensare che 6 prodotti di make up su 10 utilizzati nel mondo sono realizzati in Italia e che proprio in Italia si tiene ogni anno l'evento di riferimento del settore a livello mondiale. Parliamo di Cosmo Prof. Noi c'eravamo e siamo andati a caccia di tutte le ultime tendenze. E poi dalla spazzola, per rimanere in tema, ai tessuti, grazie ai sensori i prodotti della nostra quotidianità diventano intelligenti e attraverso i dati migliorano il nostro benessere. Per noi donne, seconda solo alla ricerca dell'uomo perfetto, è la ricerca della fragranza perfetta. Menta deperita in muschio. Oh no. Cetriolo e basilico. Perché una dovrebbe odorare di insalata? Perché sono a dieta. Che ne dite di melagrana e patchouli? No, ti serve qualcosa di classico, fresco. Con una lieve fragranza di nevrosi. Dalla K-Beauty, la cosmesi coreana protagonista di un vero e proprio boom in rete, ai prodotti etnici fino al make-up multifunzione, in pratica i trucchi che fanno bene alla pelle, poi le creme nei formati on the go, comode da portare in borsetta o in valigia. Sono solo alcune delle tendenze del mondo della cosmesi e del beauty che abbiamo visto a Cosmo Prof, l'evento numero uno al mondo per il settore, giunto quest'anno alla sua 50ª edizione, in uno scenario incoraggiante per le aziende italiane, come ci conferma Gianandrea Positano, responsabile del Centro Studi Cosmetica Italia. Sicuramente il settore beneficia del rafforzamento dell'export, questo ormai da anni è una costante crescita che vuol dire guadagno di quote delle imprese italiane sui mercati internazionali. Quest'anno la crescita è stata del 12% delle nostre esportazioni a fronte di una domanda mondiale che è cresciuta del 4%, quindi sicuramente competitività italiana molto, molto significativa. Entrando proprio nello specifico dei canali di distribuzione in generale, la vera novità è la crescita molto dinamica delle vendite online, anche se stiamo parlando di valori molto marginali, stiamo parlando di meno di 290 milioni di euro a fronte di un mercato totale che è prossimo ai 9.900 milioni di euro, quindi siamo sotto il 4%. Per quanto riguarda i prodotti, che cosa vedremo sugli scaffali nei prossimi mesi? Allora, sicuramente le categorie in crescita, sicuramente i rossetti, i lucidi labbra, fondotinta, le creme colorate e i delineatori. Quindi stiamo parlando di make-up. Sul make-up c'è l'attenzione più forte dei consumatori e anche da parte delle imprese. C'è da parte delle aziende italiane un'attenzione spasmodica alla ricerca e innovazione e direi un po' a 360 gradi. Sicuramente nelle formulazioni c'è la ricerca di principi attivi sempre più efficaci e sempre più sicuri. Sulle texture ovviamente c'è un proliferare di proposte molto legate anche ai concetti di polifunzionalità e di plurieficacia, diciamo così. Prodotti come il make-up apparentemente sono legati all'estetica, che in realtà parlano di idratazione unita appunto alle funzioni di colorazione, anche con alcuni effetti di protezione solare. Quindi questo concetto di prodotto all in one sarà sempre più evidente nelle nuove offerte. What I would do to take away this fear of being loved, allegiance to the pain. Now I fucked up and I'm missing you. Le novità di quest'anno, Tones of Beauty, area dedicata alla bellezza multietnica, la curatrice Alessandra Allegri. Il progetto è nato in America 2 anni fa, perché ovviamente la comunità etnica è molto più forte in questo paese, quindi abbiamo anche a livello di partecipazione il numero è molto più alto. E abbiamo aspettato un paio d'anni per capire che anche il nostro mercato fosse abbastanza maturo per capire il concetto dietro un'area di questo genere. È un concetto molto semplice: non nascondere la propria origine ma esaltarla. Quindi non ci sono prodotti che schiariscono la pelle o che stirano i capelli, ma prodotti che esaltano l'unicità di una carnagione con un colore diverso e quindi dei prodotti che aiutano anche ad esaltare il ricciolo, che non è magari caratteristico della nostra etnia. È tutto quello che riguarda la pelle etnica, quindi multiculturale, quindi tutti i diversi toni di bellezza. Quest'anno abbiamo deciso di dedicarci alle pelli latine, alle pelli un pochino più scure. Può darsi che l'anno prossimo invece faremo un focus sulle pelli asiatiche e sulle loro specifiche esigenze. Il mercato italiano è pronto, al di là della presenza delle etnie, della multiculturalità, anche delle italiane con un capello particolarmente riccio, magari non hanno mai trovato il prodotto adatto e potrebbero trovarlo. Avete pensato anche alla contaminazione dei mercati e dei target in questo senso? Certo, infatti ho incontrato molte ragazze italianissime che si sono innamorate di questi prodotti, e la cosa interessante secondo me è che, nonostante la maggior parte di espositori siano americani, abbiamo un'azienda italianissima che ha deciso di dedicare una parte della propria produzione a questa nicchia di mercato, individuando un trend che in questo momento magari rappresenta veramente una nicchia, ma se guardiamo la nostra realtà e gli spostamenti, le migrazioni, presto secondo me non sarà più poi così piccola. Matteo Danzeo, responsabile commerciale di Aquimpex S.p.A., che tipo di prodotti fate voi? Noi siamo specializzati da 30 anni in prodotti che si rivolgono all'etnico, quindi al cliente afroamericano. Sono prodotti specialmente studiati per la pelle che ha dei requirements particolari, soprattutto quello di uniformare il colorito, rimuovere, diciamo, le macchie, le discromie che si vengono a creare molto facilmente sulla pelle afroamericana. Quindi abbiamo dei range molto completi che partono dallo skincare lightening fino al trattamento specifico delle problematiche di pelle, quindi stretch mark, vuol dire celluliti, scrubbing cream, tutto quello che può essere il discorso sia per donna che per uomo. Made in Italy. Assolutamente made in Italy, in Monza abbiamo la nostra azienda, siamo gli unici in Italia che produciamo, quindi diciamo che abbiamo la nostra nicchia di mercato ben specifica. Siete nati con questa linea o è una declinazione di una linea cosmetica più generale? Siamo nati in questo modo, siamo nati esattamente con questo target clients 30 anni fa. Il nostro presidente ha sviluppato il business in Nigeria e dalla Nigeria, diciamo, si è sviluppato in tutti gli altri paesi africani, quindi America, e adesso serviamo anche il Medio Oriente, avendo una certa competenza sui trattamenti delle iperpigmentazione. E in Italia su quali canali distribuite? In Italia distribuiamo su canali specifici a loro dedicati, che vengono chiamati, diciamo, Afro Shop, come anche in alcune farmacie dove c'è maggiore presenza di afroamericani nella zona, tipo Torino, tipo la parte est dell'Italia, come anche la parte centrale. Ci sono delle farmacie ben definite che cominciano già oggi a chiedere prodotti a loro specifici, in modo tale da poter servire questa clientela, che ovviamente si rivolge alla farmacia per medicamenti e quindi può chiedere ovviamente trattamenti cosmetici specifici per la loro pelle. Continuiamo a parlare delle tendenze beauty tra pochissimo, subito dopo la pausa. Restate con noi perché nella seconda parte parleremo anche di consumi e sensori. È iniziata l'era degli oggetti intelligenti. Essere e avere. Di nuovo in studio con Essere Avere, ancora dalla 50ª edizione del Cosmoprof che si è chiusa qualche giorno fa a Bologna, le voci raccolte nell'area dedicata alle aziende e ai brand più innovativi, Extraordinary Gallery, a partire da quella della curatrice Alessandra Allegri. Il progetto della Extraordinary Gallery è nato 6 anni fa con lo scopo di aiutare aziende internazionali piccolissime, con magari un monoprodotto o con un concetto molto interessante, ma che non avevano magari la capacità finanziaria di affrontare una partecipazione in piena regola con uno stand di grandi dimensioni. Quindi una sorta di incubatore dove le aziende possono portare le proprie novità, le proprie idee, le proprie creatività. L'idea è di scovare dei piccoli gioielli in tutto il mondo che abbiano magari un concept diverso, un packaging, una presentazione, un ingrediente, un posizionamento sul mercato che li distingue. Ovviamente la tendenza del prodotto green è sempre molto forte, anzi andiamo proprio sul prodotto certificato perché i consumatori sono sempre più preoccupati di quello che si mettono sulla pelle. Quello che vedo è che stiamo passando da un concetto global a un concetto local. Per esempio c'è un'azienda di origine francese ma che ha un prodotto legato alla terra della Sardegna perché è a base di uve di Cannanao. Chiaramente sfruttano il fatto che le donne sarde sono donne bellissime, longeve, con una pelle meravigliosa pur essendo francesi, ed è un'azienda che sta avendo molto successo perché utilizza dei materiali locali. Un'altra azienda italiana che sta avendo molto successo quest'anno è un'azienda pugliese che utilizza i residui lasciati dal sale e dal mare, con cui ha creato dei saponi e dei prodotti di bellezza. Quindi cerchiamo magari di trovare anche dei prodotti tipici locali in paesi insospettabili. Abbiamo un'azienda dalla Romania, un'azienda dalla Slovenia, poi ovviamente la Francia fa da padrone con delle fragranze meravigliose, piccolissime aziende toscane che hanno una unica persona che segue tutto dalla design alla realizzazione del prodotto e lo fa con una passione incredibile. Quindi è un po' il nostro gioiello dove ogni anno cerchiamo di portare le novità che alla stampa magari possono anche interessare di più. Giovanni Pisu, SOA, a Extraordinary Gallery al Cosmo, prof, con un prodotto molto speciale. Noi abbiamo lanciato un estratto di uva Cannanao e tutta una linea naturale con gli estratti di essenze della Sardegna. L'idea nasce 5 anni fa, ancora quando stavamo a New York, perché abbiamo visto su Nature, una rivista scientifica, che parlavano proprio della longevità dei sardi che era legata all'uva Cannanao, e quindi lì ci hanno curiosito, quindi si sono fatti dei test, abbiamo mandato l'uva in dei laboratori francesi e tutto quanto, e si è scoperto in effetti che l'uva è 3 volte più potente in polifenoli rispetto a tutte le altre uve, e specialmente da Ugliastra, da dove veniamo noi, che è una microregione nella regione, no? Dove c'è la più alta concentrazione di centenari al mondo, sia uomini che donne. Lucilla Panerai, poesia 21. Allora, il nostro è un prodotto toscano, ruota a 360 gradi sulla toscanità. Sono fragranze che otteniamo da erbe, fiori e piante rigorosamente toscane, che fanno parte della nostra tradizione e che colorano le nostre colline. Da lì il nostro viaggio prosegue attraverso i colori e la selezione di illustrazioni che seguono la fragranza e tutto il percorso. È un percorso sensoriale al quale viene associato anche la citazione di un poeta toscano, un colore, perché ogni nostra fragranza è contraddistinta da un colore. E da lì sviluppiamo e decliniamo 5 fragranze in varie linee. Focus sui trend. Sono i sensori, la nuova parola magica nel mondo dei consumi, in uno scenario in cui gli oggetti connessi utilizzati nel mondo quest'anno supereranno quota 8 miliardi, entro il 2020 saranno più di 20 miliardi e più del 60% di questi sensori saranno inglobati in oggetti di uso più o meno quotidiano. E allora ne parliamo con Carlo Ricciardi di Future Concept Lab. Ciao Carlo, bentrovato. Buonasera a tutti. Allora, il primo degli oggetti intelligenti che hai selezionato per noi appartiene alla quotidianità di molte persone. Parliamo infatti di una spazzola. Parliamo della spazzola Air Coach, che è frutto di una partnership tra Kerastase del gruppo L'Oreal e WeThings, che è un'azienda specializzata nella produzione di activity tracker e dispositivi connessi per la salute e il benessere. Quella che sembra a prima vista una comune spazzola per capelli in realtà è infarcita di sensori. Un microfono viene utilizzato per rilevare vari parametri dei capelli, un giroscopio analizza la forza e la velocità adoperate nello spazzolare e un accelerometro conta le spazzolate. Questa spazzola smart aiuta ad effettuare un'analisi non solo della salute del capello e di parametri quali la secchezza, i danni, i nodi, le doppie punte, eccetera, ma anche della tecnica di spazzolamento in modo da migliorare le proprie abitudini. La spazzola è anche proattiva, guidando nella tecnica di spazzolamento mediante piccoli impulsi tattili. Air Coach si attiva automaticamente quando viene utilizzata e inizia a raccogliere i dati, che vengono poi trasmessi all'app sullo smartphone che fornisce una valutazione sullo stato di salute dei capelli sia giornalmente sia nel corso dei mesi. L'app consente di mettere a punto un piano per la cura dei capelli ed offre consigli sui prodotti da utilizzare a cura di Kerastase. Beh, perché ovviamente poi il grande patrimonio, insomma, generato da questi oggetti smart sono i dati, che possono essere poi utilizzati in vari modi. Grande frontiera dell'innovazione sui sensori, Carlo, i tessuti per far diventare intelligenti i capi che indossiamo. Sì, e in questo caso io citerei un esempio che ci viene dalla Svizzera, dove l'EMPA, che è un istituto scientifico specializzato negli studi di materiali tecnologici, ha sfruttato la fibra ottica per realizzare un sensore per il battito cardiaco da integrare nei tessuti degli indumenti. Questo nuovo dispositivo potrà essere lavato e risultare utile soprattutto in campo medico. I ricercatori infatti hanno studiato una tecnica di fusione tra i polimeri che ha permesso di ottenere un prodotto molto flessibile, tanto da poterlo cucire in qualsiasi capo di abbigliamento. Si riesce quindi a misurare la frequenza cardiaca dell'utilizzatore in maniera abbastanza semplice ed immediata. Il sensore potrà essere impiegato in ambito ospedaliero, così da ridurre l'utilizzo dei classici e costosi e ingombranti macchinari. Sarà sufficiente che il capo nel quale è stato cucito il dispositivo, che può essere una maglia, una coperta o un cappuccio, venga messo a contatto diretto con qualsiasi parte del corpo e attraverso la riflessione della luce, che è sostanzialmente la stessa tecnica utilizzata dai braccialetti fitness, verrà determinato il battito. In futuro questa tecnologia potrà essere ampliata e potrà garantire il monitoraggio anche di altri parametri come il livello di ossigeno nel sangue e la pressione, così da garantire un controllo immediato e non invasivo dei dati vitali del paziente. Inoltre potrà essere utilizzato anche per l'abbigliamento sportivo o per la palestra, per tenere traccia delle proprie attività. Quindi dall'applicazione in ambiti specifici, quale quello medicale, a applicazioni invece più ampie, quale questa che hai citato del fitness. Anche le nostre case ovviamente saranno sempre più popolate da oggetti intelligenti. La ricerca in questo caso si concentra su una fascia d'età molto particolare, molto sensibile, che è quella degli anziani, spesso costretti a vivere da soli. Se pensiamo alla maggior parte dei sensori di caduta che conosciamo, questi vanno indossati alla cintura e in caso di incidente attivano una richiesta di soccorso, una telefonata, eccetera. La novità invece è stata presentata dai ricercatori dell'Università del Missouri e consiste in una serie di sensori di movimento installata nella casa dell'anziano, che non deve quindi preoccuparsi di indossarli o ricaricarli. Questo sistema misura la variazione di velocità di andatura dell'anziano e la lunghezza del passo, consentendo di prevedere probabili cadute con un preavviso di almeno 3 settimane. Se il sistema riscontra che l'anziano sta accorciando il passo in maniera significativa, avvisa gli operatori, che possono così agire tempestivamente prima che si presenti l'infortunio. Sistemi come questi non solo riescono a salvare vite umane, ma lasciano all'anziano la libertà di muoversi con maggiore fiducia tra le pareti domestiche. Quindi un uso predittivo addirittura, questa è la nuova frontiera dei dati in questo caso. L'ultimo che hai selezionato per noi arriva dagli Stati Uniti, a che fare con un problema molto americano, una delle emergenze sociali americane, l'uso delle armi. Sì, e parliamo di Kay Cloffer, che è un 19enne che frequenta il corso di ingegneria elettronica all'MIT di Boston, che è l'inventore della pistola intelligente. 4 anni fa Cloffer ha iniziato a lavorare ad un prototipo di pistola con riconoscimento delle impronte digitali inserito sul calcio dell'arma, ispirandosi un po' alla tecnica che si usa per sbloccare gli smartphone. La pistola intelligente si sblocca solo se riconosce le impronte digitali del proprietario, in caso contrario non è in grado di sparare. Questa, che sembra una semplice soluzione, rende in realtà la pistola molto più sicura ed in grado di limitare le esplosioni di colpi accidentali che costellano, come dire, le cronache di cui parlavi prima. Il progetto punta infatti a diminuire gli incidenti d'arma da fuoco, soprattutto mirata a quelli che coinvolgono i bambini. Oltre agli incidenti possono venire in mente anche i casi di suicidio, visto che sono molti i ragazzi che, rubando la pistola al genitore, hanno scelto di togliersi la vita. Per non parlare delle pistole che vengono rubate ogni anno dai malintenzionati o che vengono sottratte durante le colluttazioni con gli agenti di polizia. Carlo Ricciardi, grazie, alla prossima. A voi, alla prossima. Il consumautore. Ci ha raggiunto in studio, come sempre, per la riflessione finale Francesco Morace. Ben trovato, Francesco. Buonasera. Di che cosa ci parli? Allora, stasera vorrei partire da un libro di Massimo Ammaniti che si chiama La curiosità non invecchia e che è dedicato da un lato ai longevi, che come sai è, insomma, è un tema che ci riguarda da vicino perché siamo comunque il paese più longevo del mondo insieme al Giappone, ma nello stesso tempo a valori che non si perdono nell'età più matura, come la curiosità e come anche l'idea di competenza che si costruisce nel tempo, quindi direi la maestria e il peso che questo possono avere sulle altre generazioni. In un tempo di profonde trasformazioni, i millennials totalmente diversi dai centennials e poi insomma ne arriveranno di nuovi a breve, sono più che mai preziose le riflessioni che costruiscono dei ponti, che ci permettono appunto di valorizzare il dialogo, la co-creazione tra generazioni. Sì, ed in questo è molto importante ad esempio l'idea di gratitudine, che poi è tipica dell'età più matura, e anche di gratuità, cioè proporre una propria esperienza per il piacere di farlo e per il piacere di trasmettere, di trasferire una conoscenza e un'esperienza. Ne approfitto anche per dirti che di queste cose fra 3 giorni parleremo a Roma, perché abbiamo la tappa del nostro Festival della Crescita a Roma, che è proprio dedicato al di là delle frontiere generazionali, quindi come nonni e nipoti, tra l'altro la realizziamo con FNP, che è la Federazione Nazionale dei Pensionati, e quindi nulla di più centrato che questo rapporto tra nonni e nipoti. Beh, un bel ponte sicuramente intergenerazionale, una bellissima occasione di riflessione. Per le aziende, il marketing, l'indicazione qual è, Francesco? L'indicazione è di abbandonare definitivamente un'idea di segmentazione verticale, quindi di lavorare solo su alcuni gruppi di età. Certo, si può partire da quello, ma sempre, soprattutto in Italia, sapere e capire che quel nucleo generazionale probabilmente contagerà gli altri, ecco, e quindi rimanere sempre più ampi dal punto di vista dei valori. Quindi il consumautore protagonista, le sue abitudini, come dire, la comunanza di interessi, di passioni e di gesti. Sì, perché alla fine ciascuno ha le sue passioni, ma quasi sempre queste passioni si incontrano con quelle magari di persone di altre età. Grazie a Francesco Morace, grazie a Filippo Aureggi in regia. Essere Avere torna domenica prossima dopo il GR delle 22. Come sempre, un saluto da Maria Luisa Pezzali.